No, from the south. From the south. This is more or less a national anthem with the Calabrese, of which I am part, since my father and my mother are both Calabrese. And this is called Calabrisella Mia. Do. La la la la la la la la, sta calabrisella morire mi fa. La la la la la la la la, sta calabrisella morire mi fa. Quando spannisti panna la si fa. E m'arrubai lo meglio macca tu. Casi non figlio a te lo macca tu. Fa le vece tue senza parola. Calabrisella mio e lì, calabrisella mio e là. Calabrisella mia, facimmo amore. La ra la le ra la le ra la la, sta calabrisella morire mi fa. La ra la le ra la le ra la la, sta calabrisella morire mi fa. I just got with you just about the time, Eddie. What's more? One more chorus, now I'm with you. La la la la la la la la, sta calabrisella morire mi fa. La la la la la la la la, sta calabrisella morire mi fa. See, we got you in.